Italia in controluce. Oggi è 30 agosto e ripartiamo esattamente da dove ci eravamo lasciati. I reportage, le inchieste scritte in punta di penna, gli approfondimenti della redazione e dei collaboratori di Radio 24 sulla cronaca italiana, i problemi e le eccellenze di tutte le nostre città. Buongiorno da Daniele Biacchesi che conduce e coordina Italia in controluce. La prima storia viene da Corleone ed è una storia di resistenza alla mafia. Andrea Viali. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Quello di Peppino Impastato e dei suoi 100 passi lo considerano un esempio da seguire anche oggi. Con i loro canti sono stati i ragazzi delle cooperative che lavorano nei terreni confiscati alla mafia in Sicilia ad animare la cerimonia con la quale a Ferragosto i ministri Maroni e Alfano hanno consegnato alla collettività una palazzina confiscata alla famiglia di Bernardo Provenzano, che la usò anche nel corso della sua lunga latitanza. Una casa di due piani nel centro di Corleone, paese il cui nome è legato al più sanguinario fra i clan di Cosa Nostra. È stata ribattezzata la Bottega della Legalità. Oltre ad uno spazio per eventi culturali, ospita anche un negozio dove è possibile comprare i prodotti che arrivano dalle aziende agricole sottratte ai boss mafiosi. A gestirlo sarà l'Associazione Libera, il cui fondatore Don Ciotti sottolinea così il valore dell'iniziativa. La continuità di quello che nel 97 con Scalfaro fu fatto, la Villa Tutorina, diventata allora la scuola di agraria. Da quel momento beni confiscati, apertura di cooperative, comando pubblico di giovani sui terreni dei boss, oggi questa casa sono la forza dei segni contro il potere dei segni di chi ha fatto una scelta di violenza e di crimine. Lì abita uno dei fratelli di Provenzano, questo bene confiscato oggi diventa una bottega di sapori, di sapere della legalità. Anche i saperi della legalità, perché la cultura dà la sveglia alle coscienze delle persone. Forse per il Ferragosto, forse perché intimiditi dalla presenza di decine di uomini delle forze dell'ordine, gli abitanti di Corleone non hanno certo partecipato in massa all'apertura della bottega. Chi non si è mostrato intimidito è stato invece Salvatore Provenzano, il fratello del boss, abita ancora a due passi dalla casa confiscata alla sua famiglia e non si è sottratto a telecamere e microfoni. La casa è mia. L'ho costruita io con il lavoro fatto in Germania con sudore di sangue. L'avete mai visto a Bernardo Provenzano là? Potete dirlo, avete la verità voi? Corleone oggi è anche questo e far partire da qui il cammino di chi alla mafia contrappone la legalità ha certo un grande valore simbolico, ma non è facile, serve l'impegno di tutti, ricorda ancora Don Ciotti. Ma la strada è unire le forze, le energie, la speranza deriva da piede, da PES, usiamo i nostri piedi per camminare insieme, ognuno col proprio ruolo, le proprie competenze e le proprie responsabilità, solo così è possibile. 4, 5, 10, 100 passi. Da Corleone a Palermo non sono molti chilometri. Con Raffaella Calanda raccontiamo la città del crimine per eccellenza, vista però dalla parte degli scrittori. Nei vicoli di quella che fu la città delle 100 moschee, ora nobiltà e decadenza, stranieri e italiani, il massimo della speranza e l'abisso della ferocia convivono sotto le stesse arcate. Palermo e le sue mille facce, la pluralità di una città nella mescolanza della sua lingua, dove parole e inganni si combinano come consonanti e vocali all'ombra del grande dizionario di mafia. Palermo, triste capitale di Cosa Nostra, dove uno stesso gruppo di ragazzi è uscito dal campetto di calcio una volta varcata la linea della giovinezza, si avvia verso opposte scelte, come i commercianti davanti ad una stessa richiesta di pizzo. Palermo, città di illusionismo e dissimulazione, dove, ora che le bombe dei boss tacciano e i grandi latitanti sono stati quasi tutti arrestati, tutto si può più facilmente mescolare e confondere, come nella migliore delle tradizioni dei siciliani, uno dei titoli scritti da Gaetano Savatteri. La sua criminalità si è un po' normalizzata, in sintonia con quella che è una